La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme, buona domenica da Franco D'Assisti, qualche ora di ritardo, diciamo così, rispetto alla prima emissione abituale del sabato sera per questa settimana speciale, davvero una giornata particolare, parafrasando un grande film, quella di ieri, quella di sabato, con l'elezione del presidente Napolitano, la rielezione alla quale giustamente e doverosamente Radio 24 ha dedicato uno speciale. Le cose hanno voluto, il destino ha voluto che fosse proprio all'ora della Rosa Purpurea. Napolitano non ce l'ha neanche detto, ecco, questo non ce lo doveva. No, scherzi a parte, ovviamente vi abbiamo avvisato su Facebook, sulla nostra pagina e con tutti i mezzi possibili, ma siamo qua in quella che di solito è la replica. Invece oggi è la puntata vera e propria, molto ricca, con ospiti, con tanto tempo a disposizione e con tanti film, perché è una settimana davvero interessante. Allora noi cominciamo a riepilogare subito quelli che sono i temi che tratteremo, snoccioleremo durante la nostra ora di cinema con i titoli di testa. Un gruppo di estremisti nordcoreani armati fino ai denti fa irruzione sotto mentite spoglie nella Casa Bianca. Sequestra il presidente e i suoi collaboratori, mette a ferro e fuoco l'America. A salvare il mondo ci penserà un lupo solitario, ex bodyguard caduto in disgrazia, che troverà la sua occasione di riscatto. Aaron Eckhart e Gerard Butler, protagonisti di Attacco al potere. Action movie spara tutto, déjà vu, ma sempre efficace. Esordio alla regia per Alessandro Gassman con Razza bastarda, la storia di un emigrato rumeno che sogna di dare al figlio, cresciuto senza la madre, un futuro migliore del suo, fatto di delinquenza e spaccio di droga. Ma certe esistenze sembrano non poter sfuggire al proprio destino. Alla Rosa Purpurea c'è Alessandro Gassman. Raymond Gregorius è un professore di latino di Berna, è un disilluso e un solitario. Ma un giorno, andando a scuola, salva la vita a una giovane donna che sta per buttarsi nel fiume. Nasce una relazione che spingerà l'uomo a partire per il Portogallo. Dopo il successo del romanzo, diventa un film Treno di notte per Lisbona, con Jeremy Irons, diretto da Bill August. Torna l'enfant terrible del cinema francese François Ozon e racconta il rapporto simbolico tra un ragazzo di 16 anni e il suo professore di lettere. Il giovane racconta il suo desiderio di inserirsi nella vita di famiglia del suo migliore amico. Il prof lo sprona ad andare sempre oltre fino a superare il limite consentito. Nella casa è un film sull'ispirazione, sulla creazione e sul rapporto mentore-pupillo, con uno strepitoso Fabrice Luchini. Oh, avete visto quanta roba nel nostro carniere? Allora cominciamo subito con quello che è sicuramente il film di maggiore disimpegno, diciamo, fra i titoli più conclamati di questo weekend. Stiamo parlando di Attacco al potere, uno di quei colossaloni tutto esplosioni e mascelle squadrate che hanno sempre il loro pubblico e fanno sempre il loro chiasso. Il film è diretto da Antoine Fuqua, quello di Training Day per intenderci, quindi uno specialista del genere. Non ci vuole molta immaginazione per capire che il potere sotto attacco è quello della Casa Bianca, e siccome agli americani piace cambiare i nemici, abbandonato l'integralismo islamico ormai metabolizzato dal cinema, stavolta ci si orienta verso i musi gialli, come all'epoca degli anni 60, i musi gialli questa volta nordcoreani. Il nostro ospite sta arrivando. Benvenuto alla Casa Bianca, signore. C'è stata un'intrusione, venga con me. Datemi il Pentagono, adesso! L'Olimpo è crollato. Ripeto, l'Olimpo è crollato! Signor Vicepresidente, sta a lei prendere il comando. Voglio parlare coi russi, i cinesi, gli inglesi e i francesi. In quest'ordine. Se proverete a impossessarvi di questo edificio, giustizieremo il vostro presidente. Oh mio Dio. Uno dei nostri è rimasto all'interno della Casa Bianca. Si identifichi. Matricola 309. Santo cielo, Benny. È la stessa persona che abbiamo rimosso dalla scorta del presidente. Apparteneva alle forze speciali. Ci saranno almeno 40 mercenari armati pronti a tutto. Ci si può fidare di lui? Col dovuto rispetto. Mi dispiace, ma non avete scelta. L'Olimpo è crollato, avete sentito la frase in codice che è anche il titolo originale del film Olympus Has Fallen. Mike Banning è una bodyguard presidenziale che nel prologo di questo film ci ricorda di non essere sempre stato all'altezza, di non essere sempre riuscito a fare il suo mestiere, soprattutto quella notte di Natale di qualche anno fa su un ponte, quando l'auto del presidente rimase coinvolta in un incidente e dovendo scegliere, Mike sacrificò la vita della First Lady per salvare quella del suo datore di lavoro. Da quel momento Mike è finito fuori gioco, dietro una scrivania, e uno così in quelle condizioni si annoia. L'occasione del riscatto, e che riscatto, arriva da una pattuglia super addestrata e molto determinata di terroristi nordcoreani travestiti da missione diplomatica in visita alla Casa Bianca. Una volta dentro l'iconica residenza, svestono le mentite spoglie e si rivelano per ciò che sono. Sequestrano il presidente e il suo staff e minacciano di farli fuori uno a uno se non verranno consegnati i codici delle bombe nucleari. È lì che Mike si mette in testa la sua idea meravigliosa: raggiungere il bunker dove il presidente è tenuto ostaggio in solitaria, far fuori tutti i terroristi e salvare l'America. Uno spara-spara già visto due volte, un videogame dove il joystick non è in mano allo spettatore, un film dai decibel in eccesso che riscrive per l'ennesima volta la storia sempreverde della caduta e del ritorno dell'eroe senza macchia e senza paura. Un film che può piacere a chissà cosa aspettarsi e non vuole sorprese. Un film sull'America che dà sempre una seconda occasione, anche a volte a danni dello spettatore. Seconda parte di questa nostra puntata con, l'abbiamo annunciato prima, François Ozon torna all'enfant terrible, diciamo ex enfant terrible, perché ormai ha 45 anni, del cinema francese, ma sempre uno dei registi più interessanti da vedere. Il regista di Otto donne e un mistero, figlio di insegnanti, e questo lo dico perché si sente molto in questo film, nella casa, dans la maison. Una bella storia, anche magari se non originalissima, insomma se ne sono già viste di situazioni di questo tipo. Dicevo, una bella storia di rapporto fra mentore e pupillo, fra insegnante e allievo, dove di nuovo c'è che di fatto è l'allievo a tenere le redini del gioco e di fatto a portare il professore dove vuole lui. Parliamo un po' della storia di questo film. Claude è uno studente sedicenne di quelli che i professori amano: colto, intelligente, di buone maniere, di buone letture, anche se non un secchione. È di umili origini e sembra timido, materiale fertile nelle mani di un insegnante motivato. Un giorno il professore Germain, di letteratura, assegna un tema: come ho passato il weekend? E il weekend Claude l'ha passato a casa di Raffà. Mi raccomando, i libri, siate curiosi. Voleva parlarmi, professore? Sì. A proposito del tuo compito sul weekend, l'hai scritto proprio tu? Sì, perché? Tu parli di un tuo compagno di classe e della sua famiglia. Possono prenderla male. Perché nessun altro ha letto il tema? Non ancora, ma potrei farlo anche leggere al preside, per sapere cosa ne pensa. Non l'ho scritto per il preside, l'ho scritto per lei. Claude è attratto dalle persone normali, da quei ragazzi della media borghesia che vivono in famiglie disponibili, sorridenti. Uno di quei ragazzi è proprio Raffà. Ciao Raffà. Lunedì ho proposto a Raffaele Artaud di ricominciare a fare insieme gli esercizi di trigonometria. Lui ne è stato felice e mi ha chiesto di rivederci nel pomeriggio, a casa sua. Vuoi venire a casa mia oggi pomeriggio? L'anno scorso avevo notato che i suoi genitori l'aspettavano spesso all'uscita, tenendosi per mano. Molti di noi si vergognerebbero che i genitori li venissero a prendere a scuola alla nostra età. Tutto bene. Raffà no. Per lui questo non è un problema. E io mi chiedevo, come potrà mai essere casa sua? Com'è la casa di una famiglia normale? Ecco, il racconto che Claude restituisce di volta in volta al professor Germain, che si conclude sempre con continua, e questo chiaramente eccita molto l'idea e la fantasia del professore, è un racconto piuttosto anticonvenzionale. Si sofferma su aspetti quasi voyeuristici, indugiando soprattutto su Esther, la bella padrona di casa, la madre di Raffà, che presto diventa un'ossessione per il giovane ma intraprendente Claude. La porta si apre e lei appare. Ciao, Claude. Esther, la donna che si annoia di più al mondo. Sono già usciti per andare al basket. Vuoi che li chiami e li faccia tornare? No, sono passato solo perché ieri ho dimenticato il libro di matematica. Beh, entra, te lo cerco. Finalmente solo con Esther, nella casa. Man mano che i racconti di Claude arrivano in mano al professor Germain, l'insegnante costruisce il suo racconto immaginario e assegna un'altra pagina da scrivere a Claude, ma in realtà è lo studente che sta creando nel professore una vera e propria dipendenza dal suo racconto, fino a metterne a repentaglio l'unione matrimoniale. François Ozon ci ha abituato a film non banali, magari sbagliati ma mai scontati, e così questa volta si sofferma sui temi della creazione, del racconto e dell'ispirazione. Chiaramente c'è dietro anche una sorta di autobiografico bisogno di raccontare il ruolo di sceneggiatore e di regista, sempre sospeso fra realtà e finzione, molto distinte nella prima parte del film queste due componenti, ma che via via si vanno fondendo fino a non capire più cosa influenzi cosa. Tratto dalla pièce teatrale El Chico della Ultima Fila del drammaturgo spagnolo Juan Mairoga, Nella Casa può contare su un cast di grande livello, che comincia con il professore, uno strepitoso Fabrice Luchini, già con Ozon nel precedente Potiche, e prosegue con la femme fatale Emmanuelle Seigner e con un'ottima Kristin Scott Thomas nei panni scomodi della moglie del professore. Ma è la profondità del giovane Ernest Umauer che dà il volto a Claude, a venare di intensità drammatica un film che viaggia comunque in ambiente di commedia. C'è un po' di Chabrol mischiato a un po' di Haneke in questo film, ma anche il naturalismo di Romer, la voluttuosità di Buñuel. Come dire che i padri putativi a Ozon non mancano e che il regista parigino si conferma una delle realtà più importanti del cinema d'autore francese. E allora, è il momento di giocare dopo aver parlato di Nella Casa di François Ozon con la prima traccia del film misterioso di oggi. Ma che cosa fai? Hai lasciato il rubinetto aperto? Che ti è successo? Sei impazzita all'improvviso? È uno scherzo? Se avete già indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it con il titolo del film e il vostro nome, cognome e indirizzo per partecipare alla possibilità di vincere un DVD di questo film per questa settimana. Anzi, per questa settimana, visto che siamo in onda la domenica, ne premieremo due di ascoltatori della domenica, così ci rifacciamo dal sabato della mancata emissione. Più tardi avremo, come sempre, altre due tracce. E allora, un altro film, dicevo settimana molto, molto intensa, un altro film, Treno di notte per Lisbona, e qui dobbiamo chiamare in causa, è già in collegamento con noi, il nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buon pomeriggio Franco e a tutti gli ascoltatori. Allora, Treno di notte per Lisbona, dicevamo, firma impegnativa comunque a livello di palmarès, senz'altro, come quella di Bille August, spesso impegnativa anche a livello cinematografico perché è un regista di rara calligrafia, anche se ha firmato sicuramente qualche film degno di essere ricordato. Il cast è di quelli, che fanno locandina e che magari non sempre mettono insieme il film, ma sicuramente si parte da un signore che si chiama Jeremy Irons, da Melanie Laurent, da Jack Huston, Martina Gedeck e avanti, per un film che poggia su un libro, su un romanzo di grande successo internazionale e che racconta una storia che sulla carta è intrigante, quella di un professore un po' oscuro che insegna a Berna in Svizzera, che un giorno, una mattina, recandosi a scuola per caso, salva la vita a una ragazza che sembra sul punto di buttarsi dal ponte, e questa ragazza cambierà per sempre il suo destino. Allora ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. E così ha incontrato una donna con un cappotto rosso che è sparita. Conosce questo libro? L'ho venduto a qualcuno ieri. E lei ha semplicemente abbandonato tutto. Biglietti del treno. Per dove? Lisbona. Il treno parte fra 15 minuti. Amadeu de Prado affronta argomenti che mi tormentano da anni. Chi vorrebbe essere immortale? È solo in virtù della morte che il tempo è vivo. Buongiorno, sto cercando Amadeu de Prado. Cerca mio fratello? È stato lei a seppellire Amadeu? Preferirei essere ricordato come l'uomo che gli ha insegnato. E se il tuo primo compito fosse uccidere tuo padre? La sua vita, il suo mondo, era straordinario. E allora, queste le suggestioni sonore di Treno di notte per Lisbona. Boris, dicevamo, Bille August, regista di grande successo, però anche che a volte abbonda un po' in gronda, un pochino di retorica visiva e un pochino di barocco cinematografico. Com'è andata stavolta? Quanto ha tenuto le redini, le briglie in questo treno di notte per Lisbona? Non diversamente dal solito, volendo fare una battuta, riprendendo una dei dialoghi riportati dal trailer, solo in virtù del libro che il film è vivo, perché ci troviamo di fronte al libro di Pascal Mercier, che fa altro non è che lo pseudonimo di Peter Bieri, ed è un libro notevolissimo, un libro di grande forza, un libro che ha in questa idea di una donna che si vuole togliere la vita e di un uomo che gliela salva per caso e quasi per indolenza, che si appropria di un pezzo della vita di questa donna quasi a risarcimento e cambia la propria. Un presupposto molto interessante, diciamo, a livello letterario, che doveva trovare probabilmente al cinema un ritmo completamente diverso, che non si poteva chiedere a Bill August. Il film, diciamocelo, non può essere brutto, per il semplice motivo che c'è Jeremy Irons, per il semplice motivo che ci sono due donne che a mio parere in questo momento rappresentano il meglio della recitazione femminile in Europa, cioè Melanie Laurent e Martin Gedeck, però il modo barocco e calligrafico, estremamente calligrafico, che ha Bill August appesantisce ogni minuto del film, che ti affascina nella sua cornice. La malinconica Berna e la quasi depressa Lisbona, che però è bellissima, rappresentano sicuramente la cosa migliore del film e anche il modo in cui Bill August le guarda. Nel momento in cui però arriva la vita, arriva il racconto, arriva la scrittura e arriva anche la visione dei personaggi di Bill August, inevitabilmente si sente una pesantezza di scrittura che rende il film neanche ostico, ma troppo denso, troppo difficoltoso da seguire con la leggerezza che un film del genere dovrebbe tra l'altro avere, proprio perché parte da una sospensione della credibilità abbastanza chiara. Si basti dire che appunto si attraversa l'Europa ma si parla costantemente inglese e che si vorrebbero portoghesi attori che non lo sono e che non lo neanche lo sembrano. Quindi chiaramente il cast si fa guardare, il film non è brutto, però non ha mai il salto di qualità. Dovendo scegliere, preferirò sempre leggere il libro che guardare il film di Bill August. Boris, prendiamoci un minuto, perché ce l'abbiamo, per raccontare, anzi per recensire in pillole un altro film. Adesso è veramente quasi un fuori programma, ma ci tengo a farlo perché sono tempi difficili politicamente in Italia, lo abbiamo visto proprio in queste ore e lo abbiamo visto anche nella giornata di ieri, ma insomma c'è un momento molto delicato e della delicatezza del ruolo della politica parla un altro film francese che esce questa settimana, che si intitola Il Ministro, di Pierre Scholler con Olivier Gourmet e Michel Blanc, un film che ci porta un po' dietro le quinte di quello che è il ruolo appunto di questo ministro dei trasporti francese e di tutto quello che regola la vita di un politico, di cosa batte il suo cuore, di cosa salgono le sue azioni, per cosa invece vengono depresse. È un film che ha una sceneggiatura molto rigida, molto forte, anche se quasi documentaria in certi momenti. Non ci sono grandi colpi d'ala cinematografici, tranne secondo me la scena iniziale, che è una sorta di incubo con una donna nuda che entra nella bocca di un coccodrillo, che è una cosa veramente notevole. Ecco, però volevo segnalarlo questo film perché non abbiamo tanto spazio per recensirlo profonditamente, ma non vorrei neanche passasse nel dimenticatoio, perché mi sembra che prenda proprio bene il momento, che evidentemente non è solo italiano. Ne sono felicissimo, perché secondo me il film della settimana è un film straordinario, e volendo fare una cosa che non dovremmo mai fare, cioè attaccarci all'attualità Verrebbe da pensare che quel ministro sia stato ripreso dal napoletano attuale. Ovviamente non è possibile, il film è stato pensato, diretto ed è anche uscito in Francia molto, molto prima. Racconta il film in una maniera brillante, come solo i francesi riescono a fare in questo momento, un momento del potere davvero critico, davvero difficile. Questo ministro è un uomo che crede profondamente nel suo ruolo all'interno delle dinamiche di costruzione e anche decostruzione della società, che crede però anche profondamente in quelle regole rigide che ha la politica e che si trasformano nella rigidità di una sceneggiatura, che però in questo caso è un pregio, perché a mio parere si poggia su due attori straordinari che la sanno interpretare al meglio, su questo ministro appunto, ma anche sul suo aiutante che si ispira con i discorsi di Marot quando va a casa, e allo stesso tempo però è un factotum di un pragmatismo che sfiora il cinismo. E la regia, a mio parere, è brillante sia quando è immaginifica, come in quella scena bellissima che tu hai citato, sia quando è documentaria, quasi fredda, glaciale, nel momento in cui racconta questi percorsi che la politica è costretta a fare. E sì, ci dice davvero tanto del momento maledetto che stiamo vivendo, e ci dice anche molto di tutta quella politica che si vuole rifiutare e che però ha fatto parte di decenni della nostra vita e che di certi meccanismi spesso ha bisogno. Davvero, secondo me, il film della settimana è uno dei film dell'anno. E allora, insomma, visto che abbiamo fatto bene a ripescarlo, questo Il Ministro, fra poco andremo molto molto più in basso con Scary Movie. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma, come detto in chiusura di secondo blocco, parte da Scary Movie. Abbiamo visto già secondo in classifica in America il quinto episodio di questa saga che sfotte i film dell'orrore, sempre in maniera più, se vogliamo, più greve, ma insomma è un po' la tinta, è un po' la cifra di questa saga parodica, ma che ha comunque un suo ritmo e la capacità soprattutto di portare a casa ormai uno zoccolo duro molto ampio di spettatori. Allora, con quali filmacci horror se la prende stavolta Scary Movie, Boris? Beh, non se la prende solo con gli horror, oppure non solo con i film propriamente horror, se la prende ovviamente con Paranormal Activity, tra l'altro in una delle scene iniziali in cui penso che la presenza contemporanea in scena di Charlie Sheen e Lindsay Lohan valga il prezzo del biglietto, perché insomma due attori maledetti, secondo me anche molto bravi, che qui ovviamente tutta questa bravura non la dimostrano, ma che fa piacere vedere insieme. Ma c'è anche La Madre, e a mio parere, guarda che ti dico, è molto migliore la parodia dell'originale. E credo che però l'intuizione più genialoide o folle o surreale è quella di mettere anche Il Cigno Nero, che horror è sì, ma d'autore, e che qui viene proprio scarnificato in tutte quelle cose poco credibili che c'erano nel film di Aronofsky, che Aronofsky rendeva comunque epiche e straordinarie, ma che ovviamente parodizzate diventano poca roba, ecco. Poi ci sta Hunger Games, c'è persino Ted, quindi la parodia di una parodia, c'è Inception, si sono molto divertiti a prendere in giro in Scary Movie 5, ricordiamo tra l'altro il primo degli Scary Movie senza Anne Faris, che per gli appassionati insomma rende tutti molto orfani, però si divertono a prendersela anche un po' con il nuovo autorato del cinema americano, con tutti quei registi che sono diventati un po' dei guru, e questo secondo me rende Scary Movie 5 migliore degli ultimi sequel, che sembravano davvero stanchi rispetto al primo. In qualche modo si è ritrovata quell'intuizione, che ovviamente gioca pesantissimo in maniera anche volgare con le parodie dei film più o meno famosi, ma che ha ritrovato quella felicità nella battuta anche pesante, che secondo me si fa guardare, si fa sentire e fa divertire. Certo è che è comunque per appassionati, certo è che a chi preferisce un umorismo raffinato, un umorismo in punta di penna, Scary Movie non è consigliato. Per tutti gli altri è un buon film per il sabato sera, per divertirsi con gli amici. Tra l'altro hai centrato, Boris, secondo me un tema, che queste saghe, quando si allontanano molto dal loro capostipite, per non morire di noia, devono trovare una chiave. Mi sembra che qui per esempio si sia trovata la chiave, ma è un trait d'union che vedo in molto cinema parodistico e di saga americano, quello dell'inclusione di attori, come hai detto tu, in questo caso maledetti ma sicuramente di nome, come appunto in questo caso Sheen, o appunto altri attori che possono avere un nome che non è quello del genere tipico, ma che invece rinverdisce, perché vederli alle prese con questo tipo di sceneggiature è sempre molto divertente. Assolutamente sì, questa è la grande forza secondo me di franchise, perché così li dobbiamo chiamare ormai, come Scary Movie. Secondo me c'è anche il gusto di non fermarsi all'autoreferenzialità, oppure di superarla a destra, cioè penso a tutta la parodia che c'è di Final Destination, che è di fatto una parodia proprio per la sua natura, cioè questo gioco con il resto dell'industria cinematografica, sia a livello di nomi, sia a livello di franchise del franchise, che in qualche modo rende tutto questo una bella parodia anche di tutto il sistema hollywoodiano e non solo di singoli film. E non perdetevi appunto la presa in giro di Ted, sarei curioso di come un uomo molto divertente, molto caustico, prenderà la propria parodia. Boris, grazie per averci accompagnato sin qui anche con Scary Movie e ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima! E allora, il momento di giocare ancora con la seconda traccia misteriosa del film di oggi. Come mai sei a Parigi? Che sta succedendo alla mamma? Perché non rispondi al telefono? Dall'ultima volta ti ho lasciato almeno 4 messaggi in segreteria, perché non mi richiami? E allora, titolo e vostro indirizzo, titolo del film e vostro indirizzo, se lo avete indovinato, per provare a vincere una copia in DVD di questo film, del quale fra poco vi daremo l'ultima traccia misteriosa. Mi dici una volta, tanto io mi vergogno di te e non parlo più. Una volta, tanto io mi vergogno di te e non parlo più. No, ma non mi vergogno di te. Non so mica è venuto all'Italia per far spacciatore, ma se sei romeno e hai fatto galera, che cazzo puoi fare? Guarda che tu non lo trovi uno che ti vuole più bene di me, Perché quando c'è i soldi, gli amici li trovi dappertutto. Quando invece stai con le pezze al culo, gli amici spariscono tutti. A me invece mi trovi sempre qua. E allora salutiamo con noi al telefono qui alla Rosa Purpura Alessandro Gasman. Ciao Alessandro. Ciao, grazie dell'invito. Ma grazie a te di essere qui con noi e soprattutto di essere qui con noi a celebrare un esordio alla regia, insomma, che ci fa molto piacere, perché è un film tosto, ecco, mi sembra l'aggettivo giusto, mi sembra tosto. Così come tutti i suoi capostipiti, la commedia che interpretò in maniera magistrale Robert De Niro a Broadway e poi dopo tu che l'hai portata in giro per l'Italia con un successo clamoroso, se non ricordo male 280.000 spettatori in un anno, roba, sì, che cioè, neanche 4 derby mettono insieme così tanta gente e adesso il cinema. Allora ti chiedo innanzitutto questo, cioè, perché sentivi l'esigenza di quest'altro scatto, cioè di portare questo racconto, questa storia anche sul grande schermo? Ma perché nei tre anni, nelle tre stagioni teatrali, già dalla seconda stagione avevo sentito chiaro insomma la sensazione che il mezzo cinematografico mi avrebbe aiutato ancora di più rispetto al teatro a poter andare nelle pieghe, a raccontare le pieghe di quella storia, che è una storia, un rapporto risolto tra un padre di origine romena e un figlio nato qui, un uomo che sbaglia molto, uno spacciatore che vive nelle nostre periferie, ma mentre in teatro raccontavamo quello che succedeva intorno alla baracca dove vivono, e devo dire con grande efficacia, grazie all'adattamento anche di Edoardo Erba, al cinema mi sarebbe stato consentito di far vivere quella periferia, che è la periferia di Roma in questo caso, ma potrebbe essere la periferia di qualunque altra capitale mondiale in questo momento, dove le etnie, le religioni, i colori si sono mischiati e dove tutti quanti, soprattutto in questo momento storico, non soltanto italiano, ma italiano in particolare, non se la passano, diciamo, per usare un eufemismo, benissimo, ecco. E questo è successo, e poi devo dire che grazie a Cristiano Cucchini, che ha prodotto il film, che da mio agente è diventato produttore, Rai Cinema, Movimax, la DAP, tutti coloro che hanno collaborato, mi è stata data la possibilità di fare questo film come volevo, cioè in bianco e nero, come l'avevo immaginato, utilizzando gli stessi attori del teatro e aggiungendo ad essi Michele Placido, Maddalena Ghinea e Nadia Rinaldi, che sono tre personaggi fondamentali nell'adattamento cinematografico mio e di Vittorio Moroni. Hai mai sentito parlare di Jean-Paul Sartre? Un tizio francese che teneva l'occhio storto, pure un po' ricchione, però ha scritto una frase molto bella che ti dovresti tatuare sul pisello. Io sono quello che faccio con quello che gli altri hanno fatto di me. Capisci che vuol dire? Vuol dire che a tuo padre tu gli devi baciare i piedi. E se vuoi restare nella merda o ne esci, tutto dipende da te. Ecco, abbiamo voluto isolare, Alessandro, questa clip con lo straordinario Michele Placido, questa massima di Sartre. È notevole anche come descrive Sartre, però insomma lasciamo perdere in questo senso. Diciamo che non brilla in raffinatezza. Assolutamente. Però comunque però è molto efficace. E devo dire che mi ha fatto pensare a questa cosa, che il cinema italiano recentemente, per esempio, è capitato, negli anni passati è capitato anche con alcuni film di Gabriele Salvatore, sa anche l'ultimo Educazione Siberiana. Adesso questo tuo film riflette molto sulla questione dell'educazione, della crescita, del superamento della linea d'ombra in condizioni difficili, cioè quelle di un'educazione criminale, chiamiamola così, che è sempre sullo sfondo e dalla quale a volte sembra impossibile uscire. Esattamente questo, e il tentativo è quello di cercare di capire quanti cuccioli, dal titolo originale Cuba in Steady Bear, poi Cuba e Roma nel suo cucciolo, quanti figli nati in quelle situazioni, in quei ghetti immaginari, ma neanche tanto, avranno la possibilità di uscirne, e soprattutto anche quanto tempo ci vorrà in questo paese perché venga superata una legge che io non approvo e che, di cui il nostro ex e neopresidente Napolitano ha parlato, questa legge che non permette a chi nasce da genitori stranieri nel nostro paese ad avere la nazionalità italiana, ed è una legge che spero venga cambiata molto presto perché la trovo ingiusta. Senti, Alessandro, il Bronx anni 80 della pièce originale, l'Italia contemporanea di oggi, cos'hai tenuto, cosa c'era di universale che si poteva tenere e cos'hai cambiato rispetto alla matrice originaria? Assolutamente invariato il rapporto tra i due protagonisti, appunto il padre e il figlio, ma neanche tantissimo il resto. Abbiamo, diciamo che se nella versione americana il personaggio del padre, interpretato allora in maniera, come vi lascio immaginare, sublime da Robert De Niro, era forse più centrale rispetto alla al nostro adattamento. In questo caso, proprio perché si tratta di cinema, ho voluto dare più spazio a tutti i personaggi facendone un film il più corale possibile. E poi soprattutto cercando di fare un film che non fosse totalmente realistico, ma anche grazie all'utilizzo di un bianco e nero molto virato, e alle musiche di Bibio Aldo Descalzi, farne un film, è stato definito un film impressionista. Io sono abbastanza d'accordo, perché più una visione mia, che è di uno che vive in centro a Roma e che se la passa bene, che vede quei luoghi passando magari sul raccordo anulare o viaggiando sulle superstrade, che vedi quelle case con quei panni appesi, mi chiedo sempre ogni volta chi ci abita lì, però poi mi rendo conto da italiano che più di tanto non vado ad indagare, perché sono luoghi che mi fanno un po' paura e dei quali conosco ben poco. Io credo che sia compito non soltanto questo, ma anche del cinema di fare anche informazione in questo senso, e Roman, cioè Razza Bastarda, lo fa, non prendendo posizione, ma raccontando un lato della nostra società che ci fa, passami il termine, schifo, ma che dobbiamo imparare a conoscere per migliorare il nostro paese, come è successo negli Stati Uniti e nei grandi paesi che hanno avuto grande immigrazione e poi si sono migliorati grazie agli immigrati. Alessandro, fammi chiudere in leggerezza, che poi non è proprio leggerezza in realtà. Tu hai fatto una cosa che tutti noi sogniamo, cioè quella per lavoro di ingrassare di 12 kg. Sì. E questa è una cosa per cui ti invidieremo sempre, perché grazie. Poi dopo invece noi non possiamo, anzi, voglio dire, tante volte lottiamo con la bilancia. Scherzi, sì, a parte, com'è andata e com'è andato il dopo soprattutto? Dunque, la mia ricetta, se i radioascoltatori hanno carta e penna posso darla, cacio e pepe. Mangiare unicamente spaghetti calci. Altro... Mi viene in mente l'esperimento di chi in America è stato compiuto con quel documentario dove si mangiavano solo hamburger per un mese. Ecco, io ho tentato col cacio e pepe, quindi in maniera più nostrana, ha funzionato ugualmente. Lo sconsiglio a chi ha il colesterolo alto. E poi ho smesso di farlo e ho ripreso la mia attività teatrale che praticamente mi fa vivere come uno sportivo. Io sono in scena in questo momento con Riccardo Terzo, che ogni sera mi fa perdere 1,5 kg, quindi diciamo che grazie al lavoro teatrale ho recuperato quel grasso che avevo aggiunto per il mio lavoro. E puoi mangiare anche 1 chiletto di roba al giorno, perché intanto ne perdi 1,5, quindi come dire, sei in pari anche stavolta. Ottimo. E allora grazie davvero ad Alessandro Gasman, no, quella rosa purpurea, per questo esordio, questo bel esordio. Posso solo ricordare come che il film è patrocinato da Amnesty International, di cui sono attivista e che è una onlus che si occupa di diritti civili e umani e che fa seriamente sul campo il suo lavoro. Noi raccontiamo delle storie, ma loro fanno veramente un lavoro importante sul campo. Hai fatto bene a dirlo. Grazie ancora, Alessandro. Grazie. Allora, con Alessandro Gasman noi abbiamo chiuso tutte le pagine dedicate alle novità in sala sul grande schermo. Prima di dare la linea alla viabilità, voglio ricordarvi invece un appuntamento per il prossimo periodo, per i prossimi due ponti, tra il 25 aprile e il 1 maggio, a Merano, in Trentino Alto Adige, non lontano da Bolzano, una settimana di cinema italiano, di grande cinema italiano, del presente del passato, che si intitola Cinema Resistente. Ve lo dico perché molto modestamente di questo ce ne siamo occupati io e Boris Sollazzo, quindi saremo lì per tutto il periodo, tutte le sere con un ospite diverso. Si va da Pupi Avati a Davide Ferrario, da Gaetano Di Vaio a Massimo Venier, avremo il grandissimo Maurizio Nichetti con Ladri di Saponette, avremo Roberto Andò con il suo bellissimo Viva la Libertà. Insomma, ogni sera un film, un regista, per raccontare, per fare la fotografia del cinema italiano contemporaneo e di come racconta l'Italia. A Merano, dal 25 aprile al 1 maggio, se avete voglia di venire a fare uno dei due ponti in una bella località lì nelle valli, insomma, veniteci, noi saremo lì, ci potremo anche incontrare. E tutto questo si svolge, stavo per dimenticare di dirlo, all'interno di una grande, grandissima manifestazione culturale che si chiama Festival Resistenze e che si svolge a Bolzano, e di cui questa settimana cinematografica è un po' una sorta di spin-off. E allora ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta e conclusiva parte del nostro programma, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa, le visioni domestiche. E come ogni settimana cominciamo portandoci nella redazione di Fil TV, dove ci aspetta Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati ai radioascoltatori. Allora, come sempre, le nostre segnalazioni dai palinsesti in chiaro del digitale terrestre sono variegate, ma questa settimana particolarmente variegate, e cominciamo con un film che ha tutto nel titolo, si intitola Blood Simple. Esattamente, martedì su Rai Movie alle 23:10, Blood Simple. Siamo nel 1984 ed è l'esordio col botto per i fratelli Coen, tra i più importanti registi del cinema americano di oggi. È un noir alla James Cain, trattato con i loro proverbiali toni freddi, animato da figure che sembrano tormentate e passionali, ma sono solo i soliti tragici idioti che vivono nei loro film. Una trama estremamente semplice: il marito ingaggia il Lido Detective per uccidere la moglie e l'amante, che è alla base di centinaia di racconti, ma si trasforma in una specie di horror d'ambiente che diventa labirintico, assurdo, sudato ed implacabile. E allora, questo è Blood Simple, lo ricordo ancora, martedì 23 aprile alle 23:10 su Rai Movie. E invece, saltando proprio di palo in frasca, ma alla grande, la seconda nostra segnalazione dai palinsesti è Mortacci di Sergio Citti, che un po' come Ci vediamo domani, che in sala in questo periodo, racconta con il grande Vittorio Gasman una storia che ha a che fare con la morte, ma in maniera abbastanza ridanciana. Esattamente, mercoledì su Rete 4 alle 2:05, Mortacci. Chi avrebbe potuto ambientare una pellicola in un cimitero e avere il tocco leggero, la grazia e l'ingenuità quasi pasoliniana, se non il suo discepolo più fedele, Sergio Citti? Bizzarra commedia tra il macabro e il poetico e l'umoristico, dove l'autore di Ostia e Casotto rinnova la predilizione per i cast assurdi e sfrontati e apparentemente disomogenei. Qui ci sono Gasman e Carol Hult, Sergio Rubini e Malcolm McDowell, Maria Angela Melato e Alvaro Vitali, Andy Luotto e Galeazzo Benti, infine Nino Frassi che frigge Melli Ruggeri. Un film grottesco, divertente ma umanissimo. E allora ricordiamo il passaggio di Mortacci mercoledì 24 aprile alle 2:05 di notte su Rete 4. Grazie a Giulio San Giorgio e alla redazione di Film TV. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. E allora, segnalazioni come sempre varie ma anche molto molto interessanti. Andiamo a giocare ancora insieme per l'ultima volta in questa puntata, l'ultima possibilità di indovinare il nostro film misterioso. Non possiamo lasciarla sul letto abbandonata così, non si riconosce nemmeno più, non è più lei. Non possiamo fare niente per ora. È sotto terapia, le stanno dando delle medicine e non c'è altra possibilità per il momento. Che vuol dire che non c'è altra possibilità? Perché non la portiamo in ospedale? La Rosa Purpurea @radio24.it. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una copia, anzi due copie, perché ci state ascoltando di domenica in questo fine settimana così particolare del film in questione. 7 giorni fa avevamo giocato così. Lasciami andare! No, ora mi ascolti. Quando i giocatori ti vedranno glitchare sullo schermo, penseranno che il gioco sia difettoso. Non mi interessa! Sei un bugiardo! Ma ti dovrebbe interessare, perché se il gioco va fuori servizio, tu affondi con tutta la nave, caramella! Levati dai piedi! E allora si trattava di Ralph Spaccatutto, il film Disney che ha aperto un po' la stagione cinematografica per quanto riguarda l'animazione di punta, insomma, un film della prima parte di questa stagione e che hanno indovinato, per cui si sono aggiudicate una copia in Blu-ray di questo film, Eleonora Capodicasa di Cologno Monzese, provincia di Milano, e Giuseppe Esposito di Bologna. Saranno loro a ricevere appunto una copia del Blu-ray, del quale parliamo con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Audio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, edizione un video superlativa per il nuovo gioiello Disney, con un'edizione ad alta definizione che offre il film nella versione bidimensionale, ma c'è anche una seconda proposta più completa che include anche l'opera a 3 dimensioni. Sono entrambi dischi da riferimento, dischi Blu-ray con doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese. Tra gli extra segnalo il magnifico cortometraggio digitale intitolato Paperman, un finto documentario sul campione dell'omonimo videogame, segnate alternative e focus sulla lavorazione. E veniamo invece alle novità in un video, cominciando con una commedia noir, molto molto noir, molto macabra, che si intitola 7 psicopatici. Hai detto che volevi che ti aiutassi io. Possiamo lavorarci tutti e tre. Ma lui non può aiutarti a scrivere questo film, sua moglie è appena morta. Non c'è nessun problema, basta che non sia troppo violento. Ci puoi scommettere che sarà troppo violento? Questo è il punto, te l'ho detto 20 volte, Billy, io non voglio che sia violento. Io voglio che sia un inno alla vita. Un inno alla vita? Che cazzata infinita! Ma se parla di 7 figli di troia psicopatici! Uno scrittore in crisi creativa e un romanzo in sospeso, scrittore che rimane coinvolto, suo malgrado, da un amico attore disoccupato e un misterioso uomo di religione che ha da poco perduto la moglie, entrambi, tutti e tre coinvolti nel progetto di rapimento di un cane a scopo di estorsione. Gli improbabili criminali commettono però l'errore di portar via lo shih tzu di un folle boss della malavita. Divertente commedia nera dal regista irlandese Martin McDonagh, già autore del notevole In Bruges, che anche in quell'occasione vedeva protagonista Colin Farrell, qui assieme a Sam Rockwell e Christopher Walken. Edizione un video di Movie Max, DVD ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo di resa notevole, con alcuni passaggi in cui il senso di profondità di campo e il livello dei neri risultano inferiori. Traccia DTS ad alta risoluzione italiano e inglese sono entrambe eccellenti. Come extra segnaliamo interviste al cast regista e scene omesso del montaggio finale. E allora andiamo all'altra segnalazione, sempre dalle novità in un video, con un film del 2007, Joaquin Phoenix e Jennifer Connelly nel cast, si intitola Reservation Road. Stiamo setacciando la zona, officine, sfasciacarrozze, stiamo facendo tutto quello che possiamo. Deve capire, signor Lerner, queste cose richiedono tempo. Non ve ne è servito molto per arrestarmi. Avete praticamente mandato una squadra a prendermi in meno di 5 minuti, ma nessuno riesce a trovare l'assassino di mio figlio. Mio figlio, una vita innocente, spazzata via. E non c'è nessuno a cui sembri fregargliene un cazzo. Questo non è vero. Insegnante felicemente sposato e padre di 2 bambini, Ethan perde uno dei piccoli accidentalmente investito dall'auto guidata da Dwight, avvocato, uomo divorziato e padre part-time. Fuggito dalla scena del delitto, inizialmente non sembra nemmeno capace di confessare a se stesso quanto accaduto, mentre Ethan, straziato dal dolore e arrabbiato con la polizia, incapace di trovare l'assassino del figlio, ingaggia proprio lo studio dove lavora Dwight per trovare il colpevole. dramma dell'incomunicabilità del dolore, ma anche della solitudine generata da traumi devastanti. Da Sony Pictures Home Entertainment, l'edizione italiana per ora solo DVD, di ottima qualità d'immagine, c'è una traccia Dolby Digital multicanale in italiano e due canali per l'inglese. Come extra abbiamo solo il trailer. E allora questo è Reservation Road, grazie a Claudio Poffi, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E allora sentite le note della nostra sigla che ci dicono che siamo arrivati alla fine di questa nostra ora di cinema in questa domenica d'aprile, la domenica col presidente e con questa puntata unica che però farà le sue belle repliche notturne, poi voi sapete meglio di me, insomma, quando andare a pescare la roba, la Rosa Purpurea. Soprattutto lo potete fare da lunedì sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, vi andate a scaricare il podcast, a vedere le classifiche del weekend, insomma come saranno andate le cose, vi unite alla nostra grande comunità di cinefili che poi per tutta la settimana può digitare i suoi pareri sui film che vede, anche litigare, ogni tanto succede, fra gli uni e gli altri, insomma noi siamo lì per quello, a fare un po' da assistenti, un po' da consiglieri, un po' da moderatori, però la pagina Facebook c'è, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e unitevi a noi. E allora grazie a Giorgio De Luca che ha magistralmente condotto le cose in redazione, alla nostra Valeria Bernardi che invece l'ha fatto qui alla console. Appuntamento fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisti.